Oh sacrilego, oh insano, oh scellerato ardir. Vi sono ancora nuovi disastri nel canto. In questo istante rinasce il padre tuo. Come? Che orrore, che ruina, che lutto. Se il ciel non difendeva, n'avrebbe involti. Già sai che per costume antico questo festivo dì con un solenne sacrificio si chiude. Or, mentre al tempio venia fra suoi custodi la sacra pompa a celebrar Clistene, perché non so né da qual parte uscito licida impetuoso ci attraversa il cammin, orta rovescia i sorpresi custodi, al re s'avventa. Mori grida fremendo, egli alza in fronte il sacrilego ferro. Oddio! Non cangia il re, si tocco lor, severo il guardo li ferma in faccia, e in grave suon gli dice: temerario, che fai? Guarda se il cielo venga in cura dei re, gela coi denti il giovane feroce. E dal cio che tanto minaccioso parea, prorompe il pianto. Respiro, o folle, o sconsigliato. Ed ora il genitor che fa? Minaccia volto al colpevole innanzi. Ma si procuri di salvar l'infelice. È licida che dice. Alle richieste nulla risponde, è reo di morte, e pare che non sappia o non curi. Ognor piangendo il suo Megacle chiama, a tutti il tiene, lo vuol da tutti, e fra suoi labbri con altro non sappia dir sempre a quel nome.